questo solo locale, però in nel online si mette il nome della database che viene data dal server, sì. Vai avanti. Adesso si aprirà. Questo non ho mai capito cosa sia, mi dicono sempre, hanno fatto domanda e lasciamo perdere, i programmatori forse lo potranno venire a sapere. Lasciamo perdere, non si tocca minimamente. Ma per quelli dovrebbe essere per caricare in FTP. Sì, lo so. Sì, non bisogna. Si può fare lo stesso con il carica da file. Esatto. Sì, prima mai capito. Se nessuno ha mai capito cosa serva, noi abbiamo sempre chiesto e dicevano lasciate perdere, non importa. Qui si scrive. Questo posso rispondere, perché su alcune prove che ho fatto. Dai. Per dare accesso. Perché chi può buttare su file non sia solo l'amministratore di Joomla, ma anche per dare l'accesso un po' a più persone, su alcune delle mie macchine ho fatto in modo che più persone possano farlo e lo fanno via FTP. Ho avuto dei problemi con alcuni plugin che non accettano di essere installati all'interno di Joomla via file, ma solo via FTP. Non so perché, quindi ho dovuto attivarlo. Ma non basta eventualmente avere l'FTP tipo FileZilla e fare la stessa identica cosa? No, perché proprio quando chiedono per installare un plugin come si vedrà più avanti, si fermano e dicono no, devi attivarmi la copia via FTP altrimenti non mi installo. Per cui devi con un paio di plugin. Devi essere un livello superiore del mio perché a me non è mai successo. Ma te volevo stare FTP dietro? Oltre al server HTTP. Ah, ecco, mi sono dimenticata, scusatemi perché io davo per scontato. Bisogna avere un FTP tipo FileZilla, che comunque è open source, che quello. Se FTP è open source, FileZilla. Sì. No, volevo. È la stessa famiglia Mozilla. Ah, perfetto. Ma che vale che tiravo una scarpa qui. No, perché sono da anni che lo do, però non mi sono trovato il problema. No, dicevo no, che ci vuole il server lì, non il client. Lì, però. Che deve essere aperto evidentemente. Quello sì. Il servizio sul. Sì, va bene. Ok. Benissimo. Qui si mette il nome del sito, l'importante è chiaramente quello che avete registrato, l'email, la password e in questo caso facciamo per i profani. Facciamo installare i dati di esempio, perché se non si installano i dati di esempio automaticamente vi avete solamente il template con l'immagine sopra e nessun menu già preparato. Questo sotto serve per la migrazione dalla vecchia versione 1.0 si usano quei due campi, l'ho già fatto, non mi sono già dimenticato come si fa, comunque è facile, cioè nel sito di joomla.it nel forum c'è scritto tutto quanto come fare, quindi è abbastanza facile. Vai avanti, ti ricordi la password? Sì. Ok, adesso in questo caso si rimuove completamente la cartella installazione da via FTP, se è online, in questo caso invece la cancelliamo da qui. Perché all'interno dell'installazione, cioè se si lascia l'installazione aperta non fanno neanche partire, ma qualsiasi altro può venire a fare l'installazione ex novo. Adesso entri dentro come amministratore. Ok, cosa ha di caratteristiche Joomla? Ecco, questa è l'entrata come a pannello di amministratore. Vedi, adesso in automatico si forma admin, perché in automatico admin dopo si va a cambiare eventualmente, stasera non, cioè si può mostrare come si fa, si va a cambiare sia il nome utente che la password. Ecco, vedi, adesso c'è spesso errore caricamento dei feed, sì, ma è successo che fa anche in alcuni server. Ma perché nei controlli di preinstallazione non c'è la possibilità dell'hosting di dare questo servizio. Cioè, appunto. Ok, questo è il back-end, adesso facciamo vedere il front-end come viene, anteprima, e questo è il sito installato, che è già tutti quanti i contenuti con il link, è già fatto, cioè basta. Facciamo una cosa carina, cioè magari facciamo vedere. Non facciamo vedere, lo facciamo all'ultimo. Vai in amministrazione. Allora, i siti Joomla hanno la caratteristica, rimane lì. siti Joomla hanno la caratteristica di poter essere modificati sia front-end che back-end. Front-end se si dà vai dentro gestione utenti, se si dà all'utente che può modificarlo, creane uno, un grado di autorizzazione. Le gradi di autorizzazione sono questi, sono registrati, autore, editore, publisher, lato amministrativo, manager, administrator, super administrator. Cosa fa l'autor? L'autor può inviare file, devono essere... Il tabellino, no? Sì, ce l'hai, benissimo. Nipote, bravo. Troppo bravo. Vediamo se ricorda. Vabbè, l'autor può creare contenuti, però devono essere accettati dall'amministratore. L'editor, adesso no? La pianina. Tu parli. Sì, mi sono chi mi aiuta? L'editor può creare contenuti, poi pubblicarli, poi c'è un'altra cosa a differenza dell'autor. Comunque andiamo al publisher. Il publisher può creare contenuti, pubblicarli e soltanto lui può modificare quelli che ha fatto. Nel senso che non può andare a toccare altri contenuti fatti da altri, cioè ogni contenuto fatto da quell'autore può essere creato e cancellato solo esclusivamente da lui. Non ci siamo. Poi c'è il manager e l'administrator. Questo è lato amministrativo. Sì. Poi lato amministrativo, che significa che possono anche andare attraverso back-end. Hanno la possibilità di gestire i moduli, il menu, i contenuti. L'amministratore ha la possibilità di gestire i menu, i moduli, i componenti, però non può cambiare i template. Il super amministrator può cambiare anche i template e creare anche il super amministrator, mentre l'amministrator può creare altri amministrator e manager, mentre non può creare il super amministrator. Ok, questo abbiamo creato un nuovo utente, andiamo a vedere se questo nuovo utente te lo ricordi, che andiamo a vedere entrando dentro a front-end cosa succede. E poi dopo però. E questo si usa spesso quando si danno le cose da inserire da altre persone che non è il super amministratore, quando c'è un'equipe di persone che lavorano nel sito. Se vediamo si è attivata questa disegno con cui si può pubblicare o modificare l'articolo, prova a entrare dentro e facciamo solamente dare uno sguardo così generale. Questo nel caso l'articolo sia stato fatto. Nel caso siano invece articoli, qui c'è l'editor ed editor in Word, quindi è facile anche da utilizzare. Nel caso invece fossimo andati dentro in una sezione, salva, ok. Nel caso invece se fossimo andati dentro su una categoria, si può creare, si possono creare degli articoli all'interno della categoria, quindi in automatico. E se andiamo dentro su una sezione, non si possono creare altre sezioni. Da qua no. Ritornami in backend, ritornami nel pannello di controllo. E seleziona la faccia. Sì. Allora, brava la mia mente. Qui nell'angolino si trova la versione di Joomla, ok? Quella corrente che è installata sul server. Quando esce una nuova versione si scarica da Joomla.it sempre un pacchetto. O anche Joomla.org, perché ci sono org è quello in inglese. Alcuni che vogliono le cose originali, quindi preferiscono scaricarsi tutto, sia Joomla che le patch esclusivamente originali, e vanno in Joomla.org, c'è tutto quanto. Prendi il pacchetto. E questo pacchetto che è dezippato si dezippa. Si dezippa e si copia. Si copia tutto. E dopo ti ha trovato? Sì. E si incolla sulla cartella in locale o sul server, così come sta. Il tutto? Sì. unire la cartella, sì. Quindi PFTP. Quando, sì. Quando chiede copiare o sostituire, e sostituire, bisogna sostituire tutti i file che vengono copiati, perché sono questi che vengono ad aggiornare la nuova versione. Naturalmente prima è bene fare un backup del database e dei file. Se io ho la 1.5.1 e voglio aggiornare da 1.5.10, posso farlo? Ci sono tutti i file di installazione. Esatto, ci sono tutti i file che parte dalla 1.5.1 e c'è la 5.1 per la 5.2 per la 5.3. Ah, ce n'è per ognuno? C'è la... Sì, se tu parti da 5.1 ti danno subito il patch per le 5.10. Ci sono vari file a seconda della versione. Sì, sì, sì, sì. Ok, vediamo se è andato in porto tutto. Si chiude e si rientra. Bravo. Nel caso vi dimentichiate la password o vi hanno beccato la password, come è successo da alcuni siti che non sono stati aggiornati, quindi che erano la versione 1.5.8, basta che voi andiate, basta che voi scriviate da qualche parte nei forum come trovare, come si chiama? Come modificare la password della banana. Come modificare nel MySQL la password di admin e vi danno una password decriptata, che in genere, vabbè, la trovate già fatta, se no andate online e trovate come creare delle password criptate. La modificate dentro MySQL, nel punto, vuoi mostrargliela? Ti interessa? No. Come che all'interno... Ah, non lo sapevi? No, c'è il rumore, non ho sentito. Se per caso vi beccano la password o vi dimenticate la password o con qualche vostro collega per dispetto vi ha modificato la password dell'amministratore, entrate dentro, cioè vi andate online e cercate un sito online dove criptano le password e le andate a mettere con chiaramente il nome vero, cioè nel senso c'è la password criptata, per esempio mettiamo cane, la password è cane, vi danno la password criptata, la mettete dentro il MySQL nella posizione, lo sai trovare, velocità? Come dicevano sempre i ragazzi di Joomla, i corsi, se il collega ti fa questo dispetto, informarsi subito se lavora un banking. Ah! È una cosa da fare. Hai conto valido online? Sì. Ok. Vediamo prima. Vedi un po' se riesci a trovarla. User. Eccola là. Modifica. Aspetta. Pensi c'è. Da qualche parte c'è modifica. Uno delle strutture. Cerca. Salisci. No, deve aprire proprio la cartella. Mostra. Eccola, questa qui è la password criptata, questa è la password criptata, la cambiate, mettete quella che corrisponde alla nuova password e automaticamente entrate. Questo è successo a un sacco di persone che avevano la versione 1.5.8. Ok, torniamo indietro. Come vedete adesso si è aggiornato. Adesso è cambiato il numero della versione. Nella configurazione del pannello di controllo, questo pannello di controllo, un'altra cosa da fare quasi subito è modificare un attimino la configurazione, questo per attivare il SEO per i siti che sono online, che sono sui server dedicati a Joomla. Cos'è il SEO, scusa? Il SEO, avevo anche scritto, mi tiri fuori il PDF che lo dico in inglese, che lo traduco in italiano, eccolo qua, Search Engine Optimization. Serve per ottimizzare la ricerca in Google. Perché? Perché Joomla, questa versione di Joomla dà la possibilità, cambiando l'estensione del file htaccess, di modificare tutte l'URL che è in alto, l'URL degli articoli, dei contenuti e sia delle sezioni, e trasforma come un urlo normale. Prova a fare adesso noi qui l'ultimo. Qui adesso in locale si può fare e nei siti che sono gratuiti, degli hosting gratuiti, si può utilizzare esclusivamente, si possono fare questo, friendly per i motori di ricerca, il primo e l'ultimo. prova a applicare, osservare. E niente.